soprattutto di parlare con calma, con libertà, insomma, sulle cose, di tornare a riflettere, di fare una specie di bilancio dei fatti della settimana. Ogni volta, voi sapete che tra l'altro ho un ospite che mi scelgo come opinionista, ogni volta è interessante, no, avere una chiave di lettura diversa sulle cose. Oggi c'è Alessandro Amadori che è qui con me in studio. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti, ciao Roberta. Che è direttore dell'Istituto Coesis Research, lui è un ricercatore sociale di mercato da tanti anni, no? È una lunghissima esperienza, Alessandro. Sì. Fra i tanti, tra i libri che ha scritto, l'ultimo è Ricerche di mercato per il Sole 24 Ore, dove si spiegano un po' la tipologia delle indagini, la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'intervista, insomma come funzionano queste ricerche che sono sempre più diffuse nel nostro paese, ma hanno cominciato, immagino, soprattutto negli Stati Uniti, sì, no? Paesi anglosassoni. Nascono negli Stati Uniti intorno agli anni 20 e 30 del XX secolo e hanno avuto uno sviluppo significativo in Europa a partire dal dopoguerra, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Che poi sono abbastanza strettamente legate ai sondaggi che imperversano su qualsiasi argomento, no? Certo, i sondaggi sono uno dei rami, forse il più conosciuto dal grande pubblico, delle ricerche di mercato. Con Alessandro Amadori quindi affronteremo, come mia abitudine in questo programma, tanti fatti della settimana. Poi sapete che però vorrei sempre che voi diate poi la piega al programma, insomma, in base alle vostre scelte, alla notizia della settimana che ritenete di dover riportare un po' così all'attenzione, di aspetti sui quali soffermarvi. Vi ricordo che il numero verde è sempre 800 24 00 24, il numero per le vostre telefonate. Se c'è qualche notizia della settimana, possiamo ritornare ovviamente naturalmente su quello che è il tema che continua ovviamente a dominare un po' sulle pagine italiane, nei giornali italiani, telegiornali, giornali radio, che è il terremoto in Abruzzo, con l'inchiesta che si sta allargando, con le cose che stanno venendo fuori, a parte purtroppo l'aggiornamento del bilancio delle vittime che ieri è salito a 295 con un uomo che è morto poi in ospedale per le ferite riportate. Ma insomma i temi sono tantissimi, poi cercherò anche di farvi sempre una disperata sintesi dei tanti fatti, almeno qualche notizia, però con molta libertà, come sempre vi dico, scegliete voi il fatto della settimana e l'opinione che volete esprimere. Vi ricordo che tra l'altro ci sono tantissime cose, ci saranno vari interventi anche oggi, però come sempre un collegamento con un altro pianeta in questo momento potrebbe essere opportuno. Riflessioni da Marte. La Terra, vista da qui, come sempre, ha dell'inspiegabile. Mentre si diventa sempre più consapevoli che lo sciame ininterrotto di scosse da gennaio scorso in Abruzzo non si doveva ignorare, così come non si dovevano ignorare le continue segnalazioni su edifici a rischio di collasso, e mentre si scopre di giorno in giorno che molte costruzioni crollate in Abruzzo erano fatte di sabbia e nella migliore delle ipotesi fatte di plastica espansa anziché di cemento armato, praticamente come i Lego, avete presente i mattoncini dei Lego? Ecco così. Negli Stati Uniti intanto, che sono alla ricerca spasmodica, come anche in Italia e altre latitudini, di talenti canori, si scopre postuma la vocazione cantautorale di Al Capone, il gangster, no? Con la riesumazione di una sua canzone d'amore dedicata alla moglie. Ora si produce un CD, prezzo minimo all'asta $65,000. McDonald's, catena mondiale dell'alimentazione svelta e globalizzata, scopre invece il fascino territoriale del panino ciociaro, ma la ciociaria tutta insorge, contrariata e compatta. Al largo di Malta invece si scopre una nave di migranti, oltre 150, ma Malta dice all'Italia: prenditela tu. L'Italia dice a Malta: no, prenditela tu, in attesa probabilmente che se la prenda il mare. Alessandro Amadori, c'è in particolare una qualche notizia che ti colpisce in questi giorni, sulla quale vuoi soffermarti, oppure per esempio ti parlo io di una cosa che è stata, vabbè, le tante polemiche sulla trasmissione di Santorano, sì. Zero, la precedente puntata, doveva fare una puntata riparatrice, sai che è stato sospeso Vauro, sì, il vignettista, sì, sì, per quella vignetta sul ampliamento della volumetria dei cimiteri, proprio per i morti che sono stati in Abruzzo, che è stata vissuta piuttosto male, lui è stato sospeso. Santoro è ritornato sull'argomento e diciamo sappiamo che alla fine, insomma, doveva essere riparatrice questa puntata, ma ha detto ugualmente quello che riteneva opportuno. La cosa curiosa, al di là di essere d'accordo o non d'accordo, è che, diciamo sempre, la TV spazzatura, la gente ormai omologata, abituata soltanto al disimpegno, alle cose sciocche, al pietismo, ai reality, e questa volta, secondo i dati Auditel, la puntata, l'ultima puntata di Anno Zero ha avuto un 20% di share, con più, se non sbaglio, di 5 milioni di ascoltatori, sì, 5 milioni di telespettatori, e battendo su Canale 5 lo speciale di Amici di Maria De Filippi da Lecce, che ha segnato invece 3.919.000. Sai che imperterrita l'Auditel il giorno dopo, insomma, da questi dati, implacabile. Cosa ne pensi? Beh, non sono stupito come ricercatore di mercato, perché proprio le ricerche sulla fruizione dei media e sui gusti dei telespettatori da qualche anno ci segnalano che sta crescendo il bisogno e il desiderio di programmi ad alto contenuto informativo, non necessariamente programmi accademici o programmi, diciamo, vecchio stile di cultura alta tradizionale, anzi preferibilmente programmi moderni, rapidi, di giornalismo televisivo o radiofonico d'inchiesta. Però questo segmento, come diciamo noi ricercatori, da diversi anni è in crescita. Ti ricordo che la puntata di Che Tempo Che Fa con Saviano ha stabilito poco tempo fa un altro record inaspettato di ascolto. Quindi non è vero che il pubblico è così omologato, così indifferenziato o così di bocca buona. Dipende dalla qualità di quello che si fa. Si può fare intrattenimento leggero di buona qualità, certo. Si può fare informazione intelligente, anche provocatoria, di qualità. Il pubblico risponde bene alla qualità, e in ogni caso c'è tanta voglia di informazione, di pensiero, di riflessione e di comprensione di un mondo che diventa sempre più difficile e imprevedibile. Quindi qualcuno che dia delle chiavi di lettura, che dia delle angolazioni, dei punti di vista, poi ognuno si fa il proprio pensiero critico. Però, insomma, come dicevi tu, il giornalismo d'inchiesta, come anche Report e altre cose, sono sempre molto attraenti. Allora, vi dicevo, tento di sintetizzare, mentre voi, se volete, riflettete su quanto stiamo dicendo o sui fatti della settimana. Il numero verde è per voi a disposizione, 800 24 00 24. Dicevo, tento di fare un riassunto di moltissimi fatti della settimana. Ovviamente, dicevamo, in primo piano, scusate, il terremoto. Ci sono stati i primi interrogatori ieri di vari testimoni che hanno detto delle cose abbastanza sconcertanti, insomma, poi saranno da verificare, ma persone che hanno perso anche familiari, che hanno segnalato che c'erano, per esempio, all'università delle colonne con delle crepe, delle perdite d'acqua, delle fessure, insomma, già da quando c'erano queste scosse, da gennaio. E qualcuno che dice che invece sotto palazzi che già erano costruiti male stavano scavando dei garage, tremava tutto, però è stato segnalato più volte questa cosa, ma sembra che non sia stata data molta importanza. Comunque, sempre legato al terremoto, dicevo, quindi primi interrogatori, poi saranno sentiti anche i costruttori degli edifici crollati. Intanto il governo assicura che ci saranno 800 euro al mese anche per i lavori autonomi che sono in difficoltà adesso, per il lavoro ovviamente anche in Abruzzo. Poi anche le polemiche, ne abbiamo un po' fatto cenno con Alessandro Amadori sul programma Anno Zero e i dati abbastanza sorprendenti dell'Auditel. Napolitano, il presidente Napolitano, che ha bacchettato governo e Parlamento sull'uso un po' smodato, dice, dei decreti legge, quando ci dovrebbe essere da una parte un iter parlamentare per le leggi più spesso, e poi che dovrebbe essere sempre il capo dello Stato, è una sua prerogativa, a decidere quando c'è la necessità e l'urgenza per il decreto legge, che non passa attraverso il Parlamento ma lo emana direttamente il governo, deve avere questi criteri, questa necessità, appunto, di urgenza di una cosa che deve essere subito varata. Poi la questione del referendum, ecco, su questa cosa sentiremo anche un giurista, perché mi piacerebbe sapere quanti italiani sanno esattamente, al di là di quando si voterà, di cosa si tratta, che cosa si va a votare con questo referendum. Poi le elezioni in India, la più grande democrazia del mondo, sono chiamati a votare, hanno diritto al voto in realtà 700 milioni di persone, pensate, le legislative più lunghe, più complesse, più contraddittorie del mondo. In Somalia, tanto per stare sulle buone notizie, la legge islamica, è stata approvata oggi l'adozione della legge coranica, la sharia nel paese, già un paese così devastato, sempre in preda a lotte intestine, guerra, lo sappiamo, insomma, e adesso la sharia la farà da padrona. Poi il presidente americano, che ha parlato rivelato, insomma, dossier sulla tortura da parte degli agenti CIA relativi a persone accusate di terrorismo e ha detto vabbè, mettiamo al bando la tortura, però quelli che hanno fatto questa cosa finora l'hanno fatta in buona fede, e questo non ha fatto contente molte persone, soprattutto i difensori dei diritti umani. C'è l'imminente accordo tra Fiat e l'azienda americana di auto Chrysler, molto vicina, e anche questa è una grossa notizia di questa settimana. Poi i vari fatti di cronaca violentissima in Italia, anche su questo, se Alessandro Amadori poi hai qualcosa da dire. Leggevo in prima pagina oggi su Repubblica un pezzo di Adriano Sofri che diceva: questa violenza sempre più fredda, sempre più staccata da qualsiasi minima empatia. Sì. E poi quando si arrestano quelli che fanno delle cose criminali terribili vengono scarcerati, come succede a volte, no? Per mafia liberi 21 condannati per mafia a Bari per decorrenza dei termini, siccome le cose sono andate un po' troppo per lunghe, adesso sono in libertà. E poi, se vogliamo aggiungere anche in chiusura una cosa un po' più leggera di spettacolo, però comunque fa parte del nostro costume, della nostra storia quantomeno musicale in Italia, i Pooh perdono il batterista Stefano D'Orazio, se ne va dopo 40 anni di matrimonio. Insomma, sembra che nessun matrimonio, alla fine manco quello dei Pooh, possa restare indenne da queste cose. Allora, mentre intanto comincio a salutare, ma poi apriremo i microfoni tra pochissimo, Olimpia da Lucca e Francesco da Torino al numero verde 800 24 00 24, volevo sapere se Alessandro Amadori aveva qualcosa da commentare sui tanti fatti che ti ho sottoposto. Sicuramente colpisce l'incremento che si registra da diverso tempo negli indicatori riguardanti la violenza alla persona, e direi in particolare la violenza alla donna. È un fenomeno che un po' tutti i ricercatori sociali stanno monitorando attentamente. In effetti sta crescendo la tendenza a reazioni violente, a uno scarico violento di frustrazione e aggressività, e questa tendenza riguarda purtroppo in modo particolare la donna. E io penso che anche in questa notizia negativa ci sia comunque un possibile segnale positivo. La verità è ovvero, che... Ovvero? Sembra strano. Sì, sembra strano, ma la verità è che le donne si stanno fortemente rafforzando nelle società evolute, in tutta Europa, negli Stati Uniti e in parte anche in Asia. Non dimentichiamo che in India, non molto tempo fa, le elezioni sono state vinte da una donna, oltretutto immigrata in qualche modo, la nostra Sonia Gandhi. Quindi è vero che è un fenomeno tragico, però è anche vero che sotto questo fenomeno tragico si avverte un fenomeno formidabile che cambierà, secondo me, il corso dell'umanità. Cioè, per la prima volta nella storia noi stiamo assistendo a un progressivo passaggio reale di potere, di competenza e di peso decisionale dal mondo maschile al mondo femminile. Tu sei assolutamente sicuro di questo, Alessandro Amadori? Perché a me ovviamente fa piacere, un pochino si nota in una minima percentuale, però se guardiamo anche solo all'Italia, che comunque è un paese, diciamo, più o meno sviluppato, democratico, comunque un paese occidentale industrialmente sviluppato, comunque si vede anche di poco tempo fa la notizia secondo la quale donne con la stessa qualifica, stesso ruolo ricoperto dagli uomini, magari più brave, prendono comunque sempre meno, che in politica c'è una rappresentanza femminile in Parlamento ancora minima, siamo addirittura sotto alcuni paesi africani, per esempio Ruanda. Se tu vedi nei posti di potere, nei luoghi che contano, nell'economia, della finanza, nella politica, nell'industria, un po' dappertutto, donne, nei consigli d'amministrazione non ci sono. Quindi sì, tu in base a cosa... C'è un effetto tappo nella parte alta della società, però io e la mia collega Letizia Leprini, che è coautrice del volume insieme a me, siamo assolutamente convinti che la società stia diventando più rosa. Non c'è dubbio, lo si vede nelle dinamiche di consumo, lo si vede nella crescita della presenza femminile comunque nel mondo del lavoro. È vero che c'è un tappo nella parte alta della società. Il famoso tetto di cristallo. Ecco, quindi, no? C'è questo famoso tetto di cristallo. Io penso che ci sia in atto una sorta di guerra latente, strisciante fra i due sessi, uno dei grandi temi che i ricercatori affrontano. Però l'esito di questo conflitto, secondo me, è segnato ed è a favore del mondo femminile. Le donne vivono di più a lungo, in migliore salute, studiano di più, si diplomano di più, si laureano di più. Insomma, il mondo sta andando finalmente, per la prima volta nella sua storia, verso una una colorazione più femminile. E non vi nascondo che la mia speranza e anche la mia convinzione è che proprio questa maggiore presenza femminile salverà il pianeta. Io sono ottimista sul futuro del pianeta. Il pianeta continuerà a vivere e il contributo essenziale sarà dato dalle donne a questa a costruzione di questa umanità migliore, di questo pianeta migliore. Lo stesso presidente Obama, secondo me, deve il suo grande successo al fatto che è forse il primo leader globale che riesce a utilizzare anche dei codici femminili. È il primo leader che sintetizza la componente maschile e la componente femminile in uno stile di comunicazione che è molto inclusivo, che è molto caldo, che in parte è anche molto femminile e che contrasta nettamente con leadership precedenti sia negli Stati Uniti sia in altri paesi del mondo. Quindi io su questo sono ottimista e sicuro. Il mondo va verso una maggiore rappresentazione e capacità decisionale femminile e questo salverà il pianeta dai problemi che ci affliggono. Adesso mi metto in cornice questo discorso di Alessandra Amadori che mi piace moltissimo e voglio che sia veramente uno spiraglio di speranza e il futuro da guardare avanti. Intanto sentiamo al numero verde, anche se forse c'è già la viabilità. Allora saluto solo Olimpia. Olimpia, ci sei? Sì, ciao, un abbraccio da Luca. Grazie, da Luca che è meravigliosa, tra l'altro tutte le città in Italia sono belle, Luca è anche bellissima. Sempre con voi Roberta Giordano, mio opinionista di oggi è Alessandro Amadori, ricercatore di mercato, direttore dell'Istituto Coesis Research. E a voi il numero verde per parlare dei fatti della settimana con libertà, 800 24 00 24, quindi riprendo allora Olimpia da Luca che avevo solo salutato. Rieccoci Olimpia. Ci sono. Sì. Prima di tutto sì. Vorrei incollarmi all'ottimismo di Alessandro che ha espresso un po' prima. Sì. A proposito del fatto che la società diventerà più rosa. Sì. Dobbiamo ricordarci che i nordici sono diventati un po' prima di noi. Molto prima. Molto prima. Che questa cosa succederà solo quando noi uomini e donne capiremmo il fatto che fra di noi non c'è più una guerra. Non dobbiamo guardare la nostra esistenza così come una guerra. Capire il nostro ruolo sì, però non una guerra. Ma secondo te è una cosa che devono più capire le donne o gli uomini questa cosa, Olimpia? Forse tutte e due, ma di più gli uomini. Vorrei ritornare al mio primo pensiero. Mi dici solo di dove sei, Olimpia? Io sono da Luca, ma sono romena. Ah, ecco, sentivo un accento particolare, sì, mi piaceva. Sì, la nostra mancanza delle doppie, che dà questa, diciamo, accento un po' diverso. Sì, esotico e piacevole. Quindi Olimpia, il tuo fatto della settimana, a parte che ti ringrazio per questo commento su quanto si stava dicendo, la tua attenzione sulla questione di un futuro, speriamo, più rosa, visto che Alessandro Amadori dice che sarebbe l'unica speranza per salvare il pianeta. Qual è la tua notizia, quella per cui avevi chiamato invece, Olimpia? La notizia che mi ha un po' scioccato, l'ho sentita ieri mattina. Intanto vorrei complimentarmi con te per questa isola di tranquillità che stai dando. Grazie. Vi seguo con tanta attenzione. Grazie. Però ho sentito questa notizia, si parla da un comune che si trova in provincia di Cuneo. Sì. Da una coppia di giovani che si vogliono sposare. E per le sue ragioni il sindaco ha fatto qualche inchiesta e diciamo che per ora ha sospeso questo matrimonio. Ma stai parlando di Mondovì, un matrimonio tra due persone? Sì, proprio quello. Uno straniero e un'italiana, mi sembra. No, si parla da un musulmano e da una romena. Ah. Io non sto guardando sul fatto in sé. Quello che mi ha colpito è che nella sua intervista il signor sindaco, per quale ho il rispetto per il suo incarico, però ha sottolineato tante volte parlando di questi giovani, non di persone, ma di soggetti, proprio soggetti. E lo trovo dall'inizio molto discriminatorio. Perché dici si tratta di stranieri e li chiama soggetti, ma magari proprio è un po' soggetti, ma linguaggio burocratico. In modo ossessivo. E io mi permetto di ricordare al signor sindaco che per la legge lui andrà fra un po' a ufficializzare questo matrimonio e che viviamo prima di tutto in un paese libero e democratico. È vero che ci sono tante coppie interessate e fanno purtroppo questo tipo di matrimonio, però io faccio parte di quelli che dà quella chance a questa coppia di andare avanti e di provare. Mi pare che lui non avesse il permesso di soggiorno, forse era questo per cui era stato congelato il matrimonio. Ma io non vado sul fondo di questo problema. A me mi ha colpito ripetutamente la parola soggetti quanto riguarda queste due persone che vivono in quel paesino e che hanno voglia di sposarsi. Non guarda, lasciamo alle forze dell'ordine di fare quello che devono fare, però non dobbiamo fare incarico di una funzione, perché così dobbiamo pensare che il sindaco dei soggetti. Ho capito, Olimpia, quindi c'è un po' più umanità, un po' di comprensione. Questa funzione, questo incarico finirà e anche lui come persona tornerà fra questi soggetti. Diventerà un soggetto. Olimpia, dimmi una cosa, da quanto tempo sei in Italia? Dal 2002. E mi sento più italiana che è molto bella questa cosa. Senti, faccio una domanda un po' controversa, un po' difficile, però perdonami, approfitto della tua presenza. Il fatto che sempre più spesso sentito anche adesso con l'assassinio dell'ex re del grano a Napoli e poi una rapina anche nel milanese, sarebbero stati romeni anche in questi casi, hai sentito che se ne è parlato tanto negli ultimi mesi, no? di criminalità di questo tipo, un po' connotata a volte con questo tipo di nazionalità. Tu, sentendo queste notizie, che cosa pensi? Ti ringrazio per questa domanda, veramente ti ringrazio. Prima di tutto vorrei dire che quando è successo l'evento con Giovanna Reggiani, io dopo questo evento io sono andata in chiesa e ho acceso una candela per la mia mamma e un'altra per la Giovanna. Era quella donna picchiata, sì, uccisa, brutalmente aggredita e stuprata a Roma. Purtroppo ci sono, ci sono tanti. Dobbiamo fare di più anche da una parte, anche dall'altra. E mi dissocio veramente con tutto il mio essere. Abbiamo raccolto delle firme anche in chiesa per dissociare di questi eventi e di attirare attenzione sulla la gente per bene che lavora, certo, e cerca di integrarsi. Però direi che c'è tanto da fare e queste sono le reminiscenze dalla dittatura e dal comunismo che noi abbiamo sofferto per tanti anni. Certo. Olimpia, ti ringrazio moltissimo del tuo intervento, della tua intelligenza, della tua umanità. Ti ringrazio. Grazie, Olimpia. A voi. Grazie. Forse Alessandro, brevemente, perché tra poco abbiamo, poi vuole dire qualcosa. Sì, sono rimasto molto colpito dalla ricchezza e anche dalla profondità emotiva di quello che ha detto Olimpia, certo, delle cose molto sagge e molto intelligenti. Volevo solo ricordare da ricercatore che l'Italia sta vivendo un processo di trasformazione sociale dovuto anche al grande flusso migratorio verso di noi, un processo che non abbiamo mai conosciuto nei decenni precedenti. Tenete conto che la quota di popolazione immigrata comincia a sfiorare il tetto del 7% sul totale della popolazione italiana, quindi cominciamo a essere un paese veramente multietnico. E questo è avvenuto in poco tempo, in un tempo relativamente ristretto, non più di una quindicina d'anni, quindi è chiaro che esistono delle tensioni e delle difficoltà, però va anche sottolineato, come fa il collega De Rita del Censis, che esiste un'Italia reale, silenziosa, di provincia, oltre che metropolitana, fatta di aziende, di persone, di famiglie, che sono riuscite ad attuare una integrazione reale, effettiva, senza grandi politiche governative, senza grandi ideologie di supporto, un'integrazione effettiva e reale molto più avanzata di quanto pensiamo. Quindi noi prestiamo soprattutto attenzione agli elementi patologici di questo processo di trasformazione sociale, però va rimarcato che l'Italia ha già fatto un grande passo avanti, che esistono già milioni di cittadini di provenienza estera e anche extracomunitaria che vivono e lavorano in modo perfettamente integrato nel nostro paese. E la testimonianza era un esempio chiarissimo, un esempio chiarissimo di questo. La ringrazio. Adesso Francesco da Torino, sempre al numero verde 800 24 00 24. Prego Francesco. Roberta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io volevo commentare ancora purtroppo una volta sul terremoto, ma questa volta commentare dall'altra parte, cioè sulla inadeguatezza di molti giornalisti di dare delle informazioni significative su questo tipo di tragedia. Tu hai citato, lei ha citato come... No, dammi del tu, per favore. Hai citato ad esempio quello che è uscito oggi sui giornali, il cemento di plastica. Sì. Ebbene, questo di nuovo evidentemente è un travisamento da parte di qualche giornalista che deve essere stato rilanciato sulle agenzie e viene ripreso genericamente dai giornali. A parte e fa il seguito, se posso dirlo, con l'altra bufala che è stata raccontata per giorni e giorni sulla sabbia di mare. Ora io mi chiedo, invece le vere notizie sul terremoto di quest'anno, che nessuno cita, di questa settimana che nessuno cita, sono a mio parere due. Una è il fatto che erano stati fatti delle indagini di tipo sismico, di adeguamento, per l'adeguamento sismico dei fabbricati da sottosegretario Barbari, che sono rimaste a dormire per anni e quindi si sapeva esattamente quali erano gli edifici. Sì, c'era stata una mappatura. Questo, certo. Quella è la vera notizia della settimana. E la seconda, che è ancora più vergognosa di questa, e che io ho letto a Pescara giovedì sul giornale Il Centro, è che mercoledì si è recato all'Aquila il presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, insieme a un professore universitario di Roma, ed ha affermato con una faccia che dei gare di bronzo assolutamente poco, che non c'è bisogno di nuove norme sismiche, di adeguare le nuove norme in Italia, ma che vanno benissimo quelle che c'erano e che tutte le persone che sono nel ramo tecnico sanno che viceversa sono assolutamente inadeguate e che sono state indebitamente prorogate per difendere degli interessi particolari che hanno nomi e cognomi, certo, a livello locale ma a livello nazionale. Francesco, scusa se ti interrompo un attimo, a proposito della plastica espansa, dicevi una bufala, questa non lo so, cioè, è ripresa un po' da tutti oggi, vedevo anche sulla prima pagina per esempio della Stampa, proprio al centro del giornale del Quotidiano di Torino, che dice nelle pareti dell'Università dell'Aquila, della Facoltà di Ingegneria Fiore all'Occhiello dell'Università dell'Aquila, si è visto che dentro le pareti non c'era il cemento armato, ma appunto materiale espanso che riempiva le strutture portanti nelle scale. Poi se sia una bufala, non lo so. Questa è una bufala in questo senso. Innanzitutto realizzare il calcestruzzo, si chiama poi calcestruzzo, non si chiama cemento, perché il cemento è come confondere la cioccolata col cacao. Il cemento è il cacao, la cioccolata è quello che viene fatto col cacao. Ma non è questo il termine corretto, non è il problema. Realizzare un calcestruzzo utilizzando della plastica, in realtà si tratta di parlare di argilla espansa, cioè delle gratti leggeri, costa più caro che non realizzare un calcestruzzo tradizionale. Allora perché si fanno questi tipi, si vedrà che si fanno questi tipi di calcestruzzi? Perché in zona sismica, quando si devono fare dei riempimenti, dei soffondi, dei pavimenti, dei riempimenti delle pareti, dato che le azioni sismiche sono in funzione, sono proporzionali al peso dei fabbricati, si cerca di ridurre il peso dei fabbricati, ma non sono calcestruzzi strutturali, non sono quindi la parte che deve resistere, sono elementi che vengono aggiunti per effettuare dei livellamenti, dei sottofondi, dei pavimenti, oppure semplicemente dei riempimenti all'interno delle murature. Quindi che ci sia qualche tecnica sulla base di questo, mette in giro una voce di questo genere, è assolutamente dimenticato. Francesco, ti dico solo questo, purtroppo dobbiamo lasciarci perché c'è un'altra pausa, però il fatto è oggettivamente che è venuto giù di tutto all'Aquila e dintorni. Ma per carità divina. Allora, dove sono le responsabilità? Ed è questo che mi fa impazzire, perché le vere responsabilità sono che abbiamo avuto dei progettisti che non hanno fatto il loro mestiere, delle imprese che non hanno fatto il loro mestiere, dei collaudatori che non hanno fatto il loro mestiere e dei politici che hanno rifiutato da una parte, dall'altra, la classificazione sismica di una zona che era più severa di quanto non fosse. Certo. Degli altri politici che vogliono rimandare l'entrata in vigore a livello nazionale di norme che ci adeguino a quello che, almeno per il futuro, che ci mettono in condizione di difenderci e di evitare. Speriamo che sia la volta buona. Francesco, ti ringrazio molto. Rieccoci di nuovo insieme, sempre non ci sono più le mezze stagioni, siamo insieme con me, Roberta Giordano, fino alle 15 e c'è mio ospite oggi Alessandro Amadori, ricercatore di lunghissima esperienza, ricercatore sociale di mercato, direttore dell'Istituto Coesis Research. Fra gli ultimi testi che ha scritto questo libro pubblicato, questa guida pubblicata da Sole 24 Ore, Ricerche di Mercato, che spiega un po' tutti i segreti di come avvengono, quali sono i criteri di queste indagini che ci riguardano tutti da vicino, che ci fanno una specie di radiografia insomma di nostre abitudini, consumi, passioni, tendenze, interessi, eccetera, eccetera. Ed è anche, ovviamente, mi interessava Alessandro Amadori perché ha questa visione molto approfondita, analitica della società e della società italiana in particolare, ma insomma in genere un po' questo suo atteggiamento mentale. E quindi oggi è il mio opinionista qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Lo siete anche voi, come sempre, ascoltatrici e ascoltatori, al numero verde 800 24 00 24. Però ecco, se chiedessi a qualcuno di voi su questo referendum, per il quale ci sono tante polemiche, forse non lo si vuole accorpare alle elezioni europee, anche se molti lo chiedono per risparmiare soldi, perché due tornate elettorali richiederebbero tanti milioni di euro in più, forse lo si rimanda di un anno, forse lo si accorpa invece al secondo turno delle amministrative, delle europee amministrative, il 14 o il 21, non si sa, ma si sa su che cosa riguarda questo referendum. Lo chiedo a Giuseppe Busia, che con tanta pazienza è stato in linea. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a te. Giuseppe è giurista, studioso di diritto costituzionale, esperto del Sole 24 Ore, che con la sua capacità di sintesi e di spiegarci le cose con molta semplicità ci dice che cosa riguarda questo referendum, Giuseppe. Sì, innanzitutto i quesiti sono tre, quindi tre i referendum, tre le schede. Sì. I primi due sono, diciamo, paralleli, riguardano la legge elettorale. Allora, tutti e tre riguardano la legge elettorale. I primi due riguardano uno la Camera e uno il Senato. Che cosa propongono? Noi dal 2005 abbiamo un sistema proporzionale col premio di maggioranza, sì. Vuol dire che ci sono delle liste e la lista o la coalizione, ed è questo l'elemento importante, che raggiungono la maggioranza dei seggi, che quindi la lista più votata o la coalizione più votata ha diritto ad avere il 55% della Camera o il 55% dei seggi messi in palio al Senato. Cosa propone il referendum? I referendari dicono attenzione, questo spinge ad avere coalizioni magari rissose in cui si imbarca chiunque, quindi, pur di essere i primi. Coalizioni, quindi tutto un insieme di partiti che si mettono insieme per fare l'unione fa la forza ed essere più grossi, ecco, no? Essere quindi più grossi, non un unico partito ma un insieme di partiti. Chi arriva prima alla maggioranza, e quindi si mettono insieme anche partiti, dicono i referendari, che non sono in realtà d'accordo e magari litigheranno il giorno dopo le elezioni pur di avere il premio. Cosa propone il quesito? Il quesito dice il premio non vada più alla coalizione che vince, ma solamente alla lista, per cui se si vogliono presentare si presentano sotto un unico simbolo, quindi con un unico non c'è partito, più la coalizione, e dicono i referendari questo evita appunto le coalizioni rissose. Rispondono coloro che si oppongono al quesito attenzione, perché così rischiamo di dare il 55% della Camera o del Senato a una lista che magari è molto minoritaria nel paese, perché magari ha preso il 20% e gli altri hanno tutti il 18%. E questi sono i primi due quesiti, uno la Camera, l'altro il Senato. Il terzo quesito, che riguarda sempre la legge elettorale, riguarda invece una possibilità che la legge prevede, quella che una stessa persona si candidi in più circoscrizioni, perché il territorio nazionale è diviso in tante circoscrizioni, ci sono tante liste bloccate e qui tutte le polemiche che sono sorte su questo porcellum, e là, come viene definito, è stato definito anche dal suo autore, Calderoli. Questa legge elettorale, Calderoli, si dice c'è questa possibilità di candidarsi in più circoscrizioni. Questo cosa comporta? Che i leader in genere nazionali si possono candidare in più circoscrizioni e il giorno dopo le elezioni, dimettendosi da una circoscrizione all'altra, ci piazzano per pare loro. Scelgono sostanzialmente due volte chi saranno effettivamente i parlamentari. Il referendum mira ad abolire questa possibilità. Quindi tre quesiti riguardanti tutti la legge elettorale, destinati i primi due, che sono forse i più importanti come impatto politico, a far sì che si abbia un sistema bipartitico e non bipolare con due coalizioni. I critici anche qui dicono: guardate, ci siamo ormai arrivati con l'alternanza PDL-PD e quindi in realtà ce l'abbiamo già. I referendari dicono: no, attenzione, non è vero, si può tornare indietro, meglio far così. Il terzo, ripeto, evitare le candidature multiple. Chiarissimo, volevi aggiungere qualcosa, Giuseppe? No, semplicemente, se si vuole, la partita che si sta giocando sulla data riguarda il fatto che perché il referendum raggiunga il quorum e sia approvato devono andare a votare almeno la metà dei cittadini. E allora se lo si accorpa a elezioni altre, i cittadini si trovano sono nel seggio e depositano un'altra scheda. Se devono ritornare un'altra volta invece magari molti non ci vanno, questo è il problema. Ho capito. Chiarissimo come sempre, grazie Giuseppe Cusia. Grazie. Buon sabato e buona domenica. Grazie Giuseppe. Io direi di ridare Alessandro Maduri ancora spazio agli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Tito da Teramo. Tito. Sì. Quindi dall'Abruzzo, Teramo. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Sì, Teramo è molto vicino all'Aquila. Io volevo parlare di un tema non sufficientemente sviluppato. Sì. In questi drammatici giorni. Ed esattamente il rapporto tra studenti e università e terremoto, in questo senso. Domenica io ho una figlia che si è salvata per miracolo quella famosa notte. Sì, dalla casa dello studente. Dunque io e mia figlia ci siamo sentiti alle 11:30, verso le 11, quando sera. C'è stata una scossa violenta prima della grande scossa delle 3:32. E lei era molto impaurita. Io ho detto ti vengo a prendere, dice no papà non puoi venire perché io domani devo firmare in laboratorio perché altrimenti non posso sostenere l'esame. Ora io faccio questo ragionamento, questi ragazzi che erano stressati da 3 mesi di piccole, grandi, medie scosse avevano chiesto agli organi universitari la chiusura anticipata dell'università e non sono stati ascoltati. Ora io faccio questo ragionamento, se una settimana prima l'università, considerando che le scuole medie e le elementari erano state già chiuse, perché non si è dato ascolto ai ragazzi chiudendo una settimana prima e quindi facendo allungando le vacanze di Pasqua? In questo caso i ragazzi si sarebbero riposati e tanti non sarebbero morti. Quindi io accuso gli organi universitari di non essere stati sensibili a queste richieste. Quindi non chiudere l'università perché si doveva prevedere il terremoto. Da questo punto di vista io sono perdente, perché nessuno può prevedere il terremoto. Io dico semplicemente che gli organi universitari dovevano essere sensibili e chiudere l'università. Pronto? Sì, sì, no, ti sto ascoltando Tito, stavo ragionando sulle cose che stai dicendo. E io voglio andare fino in fondo su questo, perché so che molti si stanno organizzando come parte civile per quanto riguarda le vittime. No, quello che però stavo pensando questo io questo lato di insensibilità terribile. Da una perché parte i ragazzi erano stressati, liberarli da dallo mesi. Stress, dall'altra pensavo che forse così i vertici universitari a loro volta magari aspettavano un segnale invece dalle istituzioni, che ne so, dalla Protezione Civile, da chi monitorava un po' la situazione. Non so dirti, insomma, se sia colpa o meno loro. Certo, se dici i ragazzi erano stressati da un po' e chiedevano, vabbè, allunghiamo un po' le vacanze, prendiamoci un attimo di respiro, era una cosa che si poteva anche concedere. Comunque, Tito, c'è Alessandro Maduri, sì, volevi dire qualcosa? Io volevo dire che il tema posto da Tito è un tema importantissimo e di carattere più generale di quello che può sembrare. Io non sono in grado di dire se nel caso specifico delle autorità universitarie dell'Aquila ci sia stata o meno una sottovalutazione del problema, però posso dire con certezza che in Italia manca, come diceva molto bene Tito, una cultura dell'ascolto. Questo è un punto fondamentale, non a caso le ricerche di mercato. Sembra una sciocchezza, una piccola cosa quasi da relazioni interpersonali, invece è qualcosa che può avere poi delle... Anzi, esistono degli strumenti di ricerca che sono dedicati specificamente all'ascolto dei cittadini, è l'area che noi tecnicamente chiamiamo della citizen satisfaction. Paesi più evoluti del nostro non solo hanno norme antisismiche più stringenti, ma hanno anche una cultura e i relativi meccanismi di misurazione per tenere sempre costantemente conto delle opinioni e dei segnali da parte degli utilizzatori dei servizi. Questa cultura dell'ascolto è una delle cose che dobbiamo imparare a fare, perché l'intero sistema universitario comunque ha come utente che giustifica l'esistenza del sistema stesso il cittadino studente, il giovane studente, che ha diritto di far sentire la sua voce. Ed è un dovere, a dire la stessa assolutamente, cosa, ed è un dovere di chi dirige un organo pubblico di ascoltare interattivamente i cittadini. Quindi non mi pronuncio sul caso specifico dell'Aquila, però sicuramente in Italia c'è un ritardo grave, gravissimo, in materia di cultura dell'ascolto. Bisogna rimettere i cittadini al centro del processo decisionale, perché l'intera amministrazione ha come fine, e non come strumento, ha come fine la soddisfazione dei cittadini. Grazie Alessandro. Tito. Tito è ancora in ascolto. Penso che sia stato colto il mio, sì, il mio pensiero. Sì, sì. Ti ringrazio Tito, ti ringrazio moltissimo, e almeno insomma l'importante è che tu abbia tua figlia adesso da poter continuare, certo, a abbracciare, avere accanto, però mi pare, certo, giusto e molto civile che tu faccia comunque questa denuncia e voglia andare avanti, poi se ci saranno delle responsabilità si spera siano individuate. Grazie molte Tito, grazie. La ringrazio tutti. Grazie a te. Adesso invece comincio a salutare, perché poi credo abbiamo la viabilità tra pochi istanti, Lelio Oriano Di Zio, che è architetto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Di Zio. È un architetto che ha ristrutturato una buona parte, una buona fetta di un paese che credo sia più o meno a 1300 metri sul livello del mare, vicino l'Aquila, un po' tra le montagne aquilane, che è Santo Stefano di Sessanio, appunto vicino l'Aquila, che per fortuna non ha avuto morti, ha avuto qualche danno, ma tutte le case che erano state ristrutturate, adesso ci spiegherà Di Zio quanto tempo fa, case vecchie, case d'epoca, sono rimaste tutte intatte. Ci spiegherà come mai in questo caso è avvenuto questo miracolo, oppure qualcuno molto in pratica e molto realisticamente ha fatto le cose per bene. Quindi sempre insieme, ancora per circa un quarto d'ora fino alle 15, Roberta Giordano con voi. Alessandro Amadori, mio ospite di oggi, direttore dell'Istituto Quesis Research. Vi ricordo che se mai aveste voglia di essere ancora in mia compagnia domani dalle 19.04 più o meno fino alle 19.30 ci sarà Storielle, avrò come ospite Mauro Pagani, fondatore della PFM e grande collaboratore di Fabrizio De André. Ringrazio anche nel frattempo chi è alla messa in onda, permette questo programma vada in onda, che è Giacomo Spunta, poi c'è Gigi Borghi invece che continua, io lo chiamo Octopus o Deacalia, a seconda con le mille braccia, le telefonate le fa e le riceve costantemente, quindi ringrazio loro e ringrazio gli ascoltatori e ascoltatrici al numero verde 800240024. Allora, avevo salutato poco fa l'architetto Lelio Oriano Di Zio, che ha, dicevo, che ha ristrutturato tempo fa una parte di questo paese, Santo Stefano di Sessanio, vicino l'Aquila, che è rimasto per buona porzione, per fortuna, intatto e non ci sono state vittime. Di Zio, ci spiega molto brevemente il valore anche artistico di questo paese, storico artistico di questo paese, in poche parole, e anche come è avvenuto che lì grossi danni non ce ne sono stati, a parte forse la Torre Medicea, se non sbaglio. Sì, esattamente. Ma insomma, il valore artistico di questo borgo, come di altri borghi, è tutto contenuto nell'omogeneità, in questa integrazione tra architettura e paesaggio, che per una serie di circostanze legate fondamentalmente alla miseria, all'abbandono, all'emigrazione del dopoguerra, hanno conservato questo straordinario patrimonio. E quindi più che una bellezza artistica, di fatti è una bellezza dettata dall'unitarietà e dall'integrità di questi posti. Perché Santo Stefano in Piedi, intanto vorrei lanciare un messaggio, in piedi senza come dire l'aiuto di miracoli, in piedi perché per una serie di circostanze dovute intanto agli interventi di consolidamento e di adeguamento, che voglio sottolineare è possibile farlo sul patrimonio antico, cioè è possibile conservare, è possibile recuperare il patrimonio antico raggiungendo un livello di sicurezza attesa che è compatibile appunto con quello che noi ci aspettiamo. Quindi in realtà non c'è da rassegnarsi e dire beh, quei palazzi erano antichi, erano d'epoca, per forza crollano perché sono vecchi, perché sono di altre epoche, no. No, anche perché abbiamo la storia che ci rammenta che queste case antiche hanno attraversato più di un terremoto e più di una volta sono state recuperate, sono state conservate e sono state tramandate a noi. Quindi oggi noi disponiamo di mezzi, di tecniche ancora più sofisticate, dobbiamo saperle scegliere, quelle compatibili col patrimonio antico, in grado cioè di conservare il patrimonio con l'identità che noi vogliamo sia conservato e che ci garantisca una sicurezza adeguata. Ed è quello che lei ha fatto lì a Santo Stefano di Sessanio? Abbiamo fatto a Santo Stefano di Sessanio in questo intervento di recupero. Quanto tempo fa? Ma il progetto è partito circa 8 anni fa, si è concluso circa 3 anni fa e gli immobili non hanno subito danni dal sisma, perché fondamentalmente ci sono una serie di elementi che concorrono, che ci guidano in una consapevole attività di recupero ad ottenere appunto tale comportamento. La scossa è stata più o meno quella che si è sentita all'Aquila, non è che lì c'è stata di meno, per cui... Sicuramente siamo già a qualche chilometro, la scossa è stata lievemente inferiore, però a dimostrazione poi che insomma ci sono tante le cose che concorrono, e una delle cose appunto che io vorrei sottolineare che concorre alla sicurezza prima di ogni cosa, quindi alla salvaguardia delle vite umane, è un atteggiamento corretto e consapevole nei confronti del patrimonio antico, perché tutti gli atteggiamenti eccessivamente invasivi ed invadenti anche sul patrimonio antico hanno dimostrato come questo non aumenta la capacità di tutelare le vite umane e soprattutto non conserva la propria identità, a vantaggio appunto di un atteggiamento poco consapevole e poco rispettoso del patrimonio antico. Grazie, io la ringrazio. Che percentuale quindi è rimasta proprio intatta lì? È tutta intatta, il 100% intatta. Ci sono state delle lesioni, c'è stato il crollo della Torre Medice e di antichi fabbricati non recuperati, ma i fabbricati recuperati sono al 100% intatto. Bene, la ringrazio. Allora, Lelio Oriano di Zio, chi volesse poi andarlo a vedere questo paese Santo Stefano, mi dicono che è molto carino, e allora può assumere un po' anche l'esempio di modello, insomma, per tutti gli altri edifici a rischio, edifici d'epoca che ci sono, monumenti che ci sono in Italia. Quindi degli interventi si possono fare mantenendo poi l'aspetto originario di questi monumenti. Grazie di Zio. E adesso io volevo ritornare ancora sulle telefonate. C'è, se non sbaglio, Giampiero di Diano Marina in Liguria? Sì. Giampiero, buongiorno. Pronto? A te. Buongiorno. Prego, Giampiero. Grazie di poter partecipare alla vostra trasmissione. Grazie. Io volevo dire, sì, che a mio parere il referendum mi sembra diventato una cosa inutile. Io ero prima, fino a qualche settimana fa, ero propenso appunto a questo referendum, ma adesso mi sembra che quello che porterebbe il referendum ce l'abbiamo già, quindi non è una cosa molto necessaria. La cosa che manca al referendum, secondo me, sono appunto le preferenze. Che il cittadino praticamente non vota chi vorrebbe avere come suo rappresentante, c'è sempre il capo partito che determina quali sono i deputati, i senatori. Questo mi pare una cosa... Cioè, secondo te il sistema elettorale già andrebbe bene così, solo che manca questa possibilità di scegliere da parte dell'elettore. Sì, diciamo che ormai un governo stabile, adesso a parte chi è di destra o di sinistra, ma il governo stabile ce l'abbiamo, che governi bene o governi male si vedrà dopo 5 anni, e se i cittadini sono intelligenti lo voteranno di nuovo oppure voteranno un altro governo, però il problema è appunto di votare le persone che rappresentano la mia zona, la mia o comunque le tue idee, anche. I tuoi valori, insomma. Sì. Grazie Giampiero. Posso dire ancora una cosa? Prego. Riguardo le critiche di Santoro e Crozza, queste cose qua. Si può? Sì, prego. Sì. Ecco, io volevo dire che in Italia, naturalmente sempre il mio parere, i politici e i giornalisti aspettano sempre che l'altra parte faccia uno sbaglio per accanirsi su quel punto. A me non sembra per una vignetta di Vauro che si deve parlare per 2 settimane di questa storia qua come se fosse un evento nazionale. Chi la interpreta in una maniera, chi la interpreta dall'altra, poi... non c'è bisogno di fare tutta questa propaganda così. Solo per fare un esempio, da quando c'è la Merkel in Germania, c'è una trasmissione alla radio tedesca che giornalmente critica, cioè fa delle battute di satira contro la Merkel, cioè riguardo la Merkel. E non è che nessuno si scandalizzi o che facciano queste trasmissioni, o che ci sia Ferrara che dice: se il ministro degli interni viene apostrofato come non il meglio della società da Crozza, diventi se ne deve andare. Cioè, lui è stato eletto dai cittadini e quindi... Già autorizzato, massimo, così, dici, legittimato, poi dopo la satira fa un po' il suo mestiere. Dica chi da Crozza, perché lui non lo considera il meglio dei ministri, ma non che si deve offendere e fare l'offeso come se fosse... sul piedistallo e noi siamo tutti sotto. Giampiero, ti ringrazio. Grazie. Buongiorno. A te e buon fine settimana. Adesso c'è Paolo dall'Aquila e poi vorrei sentire Valeria Della Valle. Abbiamo ancora pochissimi minuti. Paolo. Sì. Chiami proprio dall'Aquila, Paolo. Buongiorno. Buongiorno, sì, a te. Chiamo dall'Aquila. Ascoltavo la trasmissione. Secondo me è importante evitare, questo è un consiglio, è una cortesia piuttosto che mi permetto di chiederti. Sì. Di non cadere in facili generalizzazioni, perché mi rendo conto, tu leggi articoli scritti da altri e li riporti. Secondo me è importante invece considerare che... A proposito del terremoto, dici Paolo? Terremoto, certo. Ci sono alcuni edifici che sono aperti, ma c'è un edificio che forse è caduto perché c'era la sabbia. Questo dovrà essere accertato. La realtà è che c'è una città intera con migliaia di edifici che hanno retto. Poi che si veda tra i pilastri, che sono elementi strutturali, si veda la plastica che esce, va bene, perché ci sono degli elementi che poi devono essere utilizzati come coibentanti e come elementi di riempimento. Ho apprezzato molto l'intervento di un ascoltatore che mi ha preceduto, Torino. Francesco, sì, sì, che parlava. Ma certo, non è il tecnico, caso di fare per radio una lezione di scienza o di tecnica. No, Paolo, io spero che la tua casa sia integra, anche se poi si diceva appunto viene giù l'ospedale, viene giù la casa dello studente, forse queste strutture, oltre alle case private naturalmente. Però. Allora va benissimo, è un edificio che è caduto, una prefettura che è caduta, ma c'è una casa dello studente che è caduta, possono essere delle microazioni localizzate, sicuramente tutto il centro storico è danneggiato, ma la cosa importante è un'altra, mi permetto, noi abbiamo un tessuto economico che è fermo, una criminalizzazione completa verso i costruttori, i politici aquilani, questo è un danno, il tuo ospite si occupa di ricerca di mercato, potrà valutarlo senza dover fare sondaggi. Se oggi noi chiedessimo nel mondo chi vuole venire a vivere all'Aquila, nessuno direbbe ci voglio venire. Beh, in un momento così... Questo danno noi lo pagheremo, questo è un danno, e noi pagheremo per decine di anni. Paolo, io ti chiedo scusa... Anche della parte buona. No, ne parleremo della parte buona. Perdonami Paolo, devo lasciarti perché abbiamo un minuto per Valeria Della Valle, la linguista della Sapienza di Roma, fiore all'occhiello di questa trasmissione, che oggi gioca con le parole. Io le chiedo sempre le parole che hanno caratterizzato la settimana, ma tu sei a Poggi Bonsi per un festival particolare in questi 40 secondi che abbiamo. Ecco, nei pochi secondi è un festival dedicato appunto alle parole, si chiama Le Parole e i Giorni, e in questi due giorni si tratta della lingua italiana, sia della lingua della scienza, ma anche oggi pomeriggio della lingua della letteratura. Premieremo Gianni Mura per il suo libro La Fiamma Rossa, e Tullio De Mauro perché ha dedicato tutta la sua vita alle parole della lingua italiana. E quindi ecco, due giorni dedicati, ecco, oggi non parliamo di una parola ma di tutte le parole che compongono l'immenso vocabolario della lingua italiana, tutto qua. E delle parole a cui dobbiamo stare attenti, che vanno certamente usate con cautela, anche come diceva Paolo dall'Aquila, ma ovviamente in questo periodo forse un pochino si ha difficoltà magari andare verso l'Aquila a livello turistico, come si avrebbe verso una qualsiasi città in Italia che fosse stata colpita da una situazione del genere. È chiaro che siamo tutti un po' emotivi e tutti cerchiamo di salvaguardarci, per cui non è perché si parli male dell'Aquila o del fatto che tante cose sono crollate. Intanto poi la situazione oggettiva si cercherà col tempo di definire e di usare, ovviamente, però per quanto riguarda la nostra categoria, sempre le parole con una certa attenzione. Alessandro Amadori, ti sto per salutare, sì. Abbiamo ancora un secondo. Volevo solo chiudere con un invito collettivo, sì, ad andare in vacanza in Abruzzo, sulla costa, che è sicuramente a prova di qualunque rischio sismico. Dobbiamo fare qualcosa per aiutare quella comunità. Il modo migliore per farlo è rimettere in circuito la vita, l'economia, la vita economica, la vita sociale. La normalità, la quotidianità. Io ho preso l'impegno con me stesso ad andare in vacanza in Abruzzo. Ci collegheremo allora con l'Abruzzo per quest'estate, con Alessandro Amadori. Roberta Giordano vi saluta, vi auguro un buon fine settimana. Prossimo sabato.